patè di funghi porcini. Va bene. Voglio una castagnetta mentre dice. Vergognoso. Alla mezza per ma ho corso. Buona giornata, tanti auguri, ciao, buona giornata, ciao, buona vi ho salutato quindi e mi ricordo più che dovevo andare a scuola. Allora, ecco me lo si vede questo fatto sì o come silenzio, qua che silenzio! Qua la parola, che parole sono molto buone! Una parola buona, però non è buona! Però come sono stati buoni?